questo è ciò che sono e questo è come suona. Copriti le orecchie se per te solo frastuono. Agita la testa se ti sembra buono, altrimenti disprezza e vattene a fanculo. Probabilmente questo è segno che sto impazzendo. Non capisco un cazzo di cosa sto facendo, ma sento un odio dentro me che sta crescendo e sale dalla conoscenza del mondo esterno. Più lo percepisco, più a fondo lo capisco, più mi rattristo per lo schifo che ho già visto. Insisto, ma alla fine non ci riesco. Non troverò mai qualcosa che risulti giusto. Interesse inesistente, parlo con lo sguardo assente. Sputo merda su tutti costantemente. Non me ne fotte più un cazzo della gente. Ormai l'ho capito che non mi tornerà niente indietro. E troppe volte mi spreco. Sto imparando con il tempo a stare bene col mio ego. La fine indubbiamente mi vedrà da solo. Dopodiché senza più forze crollerò al suolo. E questo è ciò che sono e questo è come suono. Copriti le orecchie se per te è solo frastuono. Agita la testa se ti sembra buono, altrimenti disprezza e vattene a fanculo. E questo è ciò che sono e questo è come suono. Copriti le orecchie se per te è solo frastuono. Agita la testa se ti sembra buono, altrimenti disprezza e vattene a fanculo. Questo mondo mi renderà pazzo se già non lo sono. Pompo sul volume per disperdermi nel suono. Mi butto a fare un beat, dopo mi rilasso e fumo. Penso e ripenso e ripenso e rifumo. E ascolta questo battito che spacca tipo tuono. Adesso mi rifletto dentro ogni semitono. Penetro nella tua mente e te la fraziono. Per questo in ogni posto dove mi ritrovi stono. Esco da sta casa con la testa sottoterra. Ho provato troppo tempo ad apprezzare questa melma. È come un morso grosso ad una mela acerba. Capire cosa spinge tutti a vivere di merda. La società moderna mi vorrebbe falso. Non scendo a compromessi, piuttosto resto scalzo. E non mi ammazzo per chi non vale un cazzo. E ritorno nella notte dalla quale sono apparso. E questo è ciò che sono e questo è come suono. Copriti le orecchie se per te è solo frastuono. Agita la testa se ti sembra buono, altrimenti disprezza e vattene a fanculo. E questo è ciò che sono e questo è come suono. Copriti le orecchie se per te è solo frastuono. Agita la testa se ti sembra buono, altrimenti disprezza e vattene a fanculo. La musica che faccio sputtana sto postaccio. Mina dopo mina in mille pezzi come il ghiaccio. Sono un intralcio, comodo personaggio. Smaschero l'ipocrisia del vostro bel paesaggio. Incompatibile, sempre più irascibile. Accontentarmi di quello che c'ho impossibile. Ed è incredibile, mi sento come un missile lanciato vorticosamente verso un posto ignobile. Paranoico, vedo gente che mi osserva. Insopportabile anche per chi mi circonda. Sto per esplodere schiantandomi per terra. Pronto a spazzare via con me tutta sta merda. E l'odio che senti per me, per me, è incompleto perché lo sai che ho ragione, ho ragione. Spacca le casse con me, con me. Urlalo forte, vattene a fanculo. E questo è ciò che sono e questo è come suono. Copriti le orecchie se per te è solo frastuono. Agita la testa se ti sembra buono, altrimenti disprezza e vattene a fanculo. E questo è ciò che sono e questo è come suono. Copriti le orecchie se per te è solo frastuono. Agita la testa se ti sembra buono, altrimenti disprezza e vattene a fanculo.